soffia, che respira, che soffre, che ti attira, sempre più dentro, sempre più al centro, sempre più in mezzo, fino a che non lo distingui più il confine tra la tua pelle e il cielo, tra quello che ha pezzi e quello che è intero. La notte ha mille occhi, credi di guardare, sei guardato. Sono tempi rock and roll che si resta senza fiato. Cade ogni record alle Olimpiadi, tutto si supera in un secondo. E ogni mondo c'è dentro un mondo che ha dentro un mondo che ha dentro un mondo.